in primo piano. Certamente è l'intervista dell'amministratore delegato Marchionne ieri da Fabio Fazio a conquistare poi le prime pagine dei giornali, perché quello che ha detto viene tradotto nei titoli del Corriere, per esempio, in prima pagina: l'Italia un peso per la Fiat, Marchionne, i 2 miliardi di utile vengono solo dall'estero. Per Repubblica: Fiat la sfida di Marchionne, il Messaggero: senza l'Italia Fiat farebbe meglio. Per il Quotidiano Nazionale c'è Marchionne a tutta pagina, lo schiaffo, questo è il titolo. C'è chi sceglie i rifiuti, la situazione Rai, e poi vedremo, segnalo e poi lo leggeremo, il Sole 24 Ore da oggi completamente o molto rinnovato per quel che riguarda il lunedì, l'edizione del lunedì dedicata con un editoriale di Gianni Riotta, un lunedì da leoni per tutti voi, un nuovo giornale per soprattutto dare la bussola alle piccole e medie imprese e allo spazio, ai mercati, come conquistare i mercati per le PMI. Il titolo di apertura del Sole 24 Ore: rischio valute per le PMI, dai contratti in euro ai gruppi d'acquisto, le contromosse delle aziende. Due segnalazioni per iniziare questa rassegna stampa. La prima, l'abbiamo sentita anche in breve nel GR, è una mezza pagina di Repubblica, una storia davvero incredibile che viene da Torino. La vita di un operaio albanese vale meno di quella di un italiano. Torino, sentenza shock. La vicenda parte da una morte sul lavoro da parte di un operaio albanese, al quale il giudice civile Ombretta Salvetti ha riconosciuto alla famiglia un risarcimento che è 10 volte inferiore rispetto a quello che toccherebbe ai genitori nel caso fosse stato un lavoratore italiano. La motivazione di questo è perché madre e padre albanesi otterrebbero altrimenti un ingiustificato arricchimento. Una gabbia salariale della morte, viene definita da Repubblica, ispirata al criterio del risarcimento a seconda del paese di provenienza del deceduto sul lavoro. Una sentenza che Repubblica definisce una sentenza shock. Perché, richiamando il giudice una sentenza della Cassazione di 10 anni fa, ha deciso di equilibrare il risarcimento al reale valore del denaro nell'economia del paese ove risiedono i danneggiati. Insomma, la vita di un operaio albanese vale meno di quella di un italiano, avrà ottenuto un risarcimento i genitori di 32.000 euro per questo operaio morto sul lavoro. Se l'operaio fosse stato italiano, applicando le nuove tabelle, avrebbe ottenuto dai 150 ai 300.000 euro, sarebbe stato il risarcimento per i genitori di questo operaio. La seconda segnalazione viene dal Messaggero, pagina 11. Comune condannato per stress da multa. Il comune condannato è quello di, credo, la firma è da Perugia, ma insomma forse in realtà è avvenuto a Terni. E viene proprio a Perugia. Riguarda un automobilista di Terni che ha preso una multa, l'ha pagata, ma per anni. Per anni il comune di Perugia gli ha mandato cartelle esattoriali dicendo: guardi che lei non ha pagato la multa. Una multa pagata nel 2003, anzi un paio di multe. Due contravvenzioni da 76 euro e 25 l'una, le ha pagate. La vicenda finisce in archivio, poi ha continuato a ricevere a distanza di anni cartelle esattoriali, l'ultima delle quali gli chiedevano 1940,42 euro, insomma quasi 8 volte rispetto alle due multe pagate 5 anni prima. Al che questo signore si è stufato, ha fatto veramente causa al comune di Perugia chiedendo i danni da stress e per il tempo trascorso e perduto e anche per lo stress subito. Ebbene, c'è un giudice in questo caso che gli ha dato ragione. E dunque il comune di Perugia è stato condannato a pagare 1.000 euro a questo automobilista, perché tutto ciò non può che costituire negligenza dell'ente locale, perché il comune non ha in nessun modo evitato il reiterarsi delle richieste. Comune condannato per stress da multa. Insomma, la troppa burocrazia stavolta al comune di Perugia ha fatto male a un automobilista che aveva pagato regolarmente le multe. E allora ci fermiamo qui, dopo pubblicità e meteo ripartiamo appunto da Marchionne, dalla frase che ha scatenato un putiferio anche di reazioni anche politiche, reazioni economiche che troviamo sui giornali, e poi anche la politica che riparte in questo lunedì 25 ottobre. E allora l'intervista di Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, ieri, a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, ha suscitato le polemiche che trovate sulle prime pagine dei giornali. Cosa ha detto in pratica Marchionne? La frase che ha fatto più discutere: non un utile della Fiat, i 2 miliardi di utile dei primi 9 mesi del 2010 viene dall'Italia, nemmeno un euro, se potessimo tagliare l'Italia faremmo di più. E allora ecco le varie interviste. Il Corriere della Sera, pagina 3, intervista a Sergio Bonanni, segretario della CISL, che dice: non mi scandalizza, sapevamo che la produttività è un problema reale. Poi lancia una sfida, la seguente sfida a Marchionne: arriviamo al pieno utilizzo degli impianti in cambio non solo del salario di produttività, ma anche della ripartizione degli utili. E questione che reputo molto importante, se arrivi a un livello di partecipazione alto delle decisioni aziendali. Ecco qui la sfida di Bonanni: profitti ai lavoratori, su questo sfido il Lingotto. Sempre a pagina 3, intervista di Claudio Delfrate al vicepresidente di Confindustria Bombassei, che dice: Sergio ha ragione, si rischia il deserto industriale, avrebbe potuto dirne molte di più di cose che ha detto. Dice Bombassei, ad esempio, che la competitività di un paese non è solo questione di costo del lavoro, ma anche costi dell'energia, fisco, infrastrutture, insomma lo sforzo comune di un intero sistema. E poi Bombassei ricorda: sono appena tornato dalla Cina, il confronto è impietoso. E a Claudio Delfrate, che dice: mi scusi, ma le pare giusto ridurre tutto a un confronto con la Cina? Bombassei risponde: non è solo con Pechino che siamo perdenti, anche in Polonia le ore lavorate ogni anno sono mediamente 200 in più rispetto all'Italia, confronti a cui non possiamo più sottrarci, altrimenti rischiamo la desertificazione industriale. E ancora sulla frase, quella che ha fatto più discutere, cioè: senza l'Italia i conti di Fiat sarebbero migliori. Questa è l'accusa che viene fatta a Marchionne, insomma, di essere stato molto duro con l'Italia. Anche stavolta la realtà dei fatti è impietosa, dice Bombassei. Credo che la formazione corrisponda a verità. Lo vedo anche per quanto riguarda il mio gruppo. Gli utili che realizziamo in Polonia o in Brasile sono superiori a quelli ottenuti in Italia. E le 15.000 piccole e medie imprese italiane in Romania sono un dato su cui discutere o no? Anche se Bombassei dice: resta pur sempre un vincolo sentimentale con l'Italia, nessuno di noi è felice di spostare la produzione all'estero. Non la pensa così Epifani, e su Repubblica la posizione è molto critica. Guglielmo Epifani, intervistato, o meglio in una conversazione con Roberto Mania, pagina 3, dice: Marchionne parla come se volesse andare via scaricando le colpe sugli operai. La verità è che vorrebbe andarsene dall'Italia. Questo dice Epifani. D'altra parte lui stesso continua a dirlo. Non a caso sostiene di non avere più debiti con il nostro paese. Come se si sentisse obbligato a star qui da noi, mentre il gruppo è sempre più americano, forte in Brasile e negli Stati Uniti. E ancora Epifani: avevamo capito da tempo che Marchionne fosse molto scettico sul futuro della Fiat in Italia. Ma come si può pensare che dagli stabilimenti italiani provengano anche degli utili quando sono praticamente fermi? Si fa cassa integrazione dappertutto, si ricorre alla cassa integrazione perché il mercato europeo non va bene, in particolare per i marchi Fiat. Insomma, Epifani critico, il mondo della politica è per Repubblica critico anche in un'intervista al ministro Roberto Calderoli, ministro per la semplificazione, che ad Andrea Montanari a pagina 2 e 3 di Repubblica è molto duro. A Torino ricordino i prestiti e gli incentivi, il 99% delle cose che ha detto sarebbero anche giuste, inizia così Calderoli, a patto che non le avesse detto l'amministratore delegato della Fiat. Si potrebbe dire al contrario, che gli italiani, in particolare la Padania, senza la Fiat in questi anni sarebbero stati meglio. Marchionne ha la memoria corta sugli aiuti di Stato. Un conto aver restituito un prestito, la verità è che in questi anni gli italiani la Fiat se la sono comprata già due volte. Insomma, critico Calderoli, ma certo è pieno di reazioni, tanto che questa frase, la frase che ha fatto più discutere, in quella senza l'Italia, se tagliassimo l'Italia andremo meglio nei conti, ha fatto un po' mettere sotto un cappello d'ombra tutte le altre frasi importanti. Per esempio la Stampa mette a pagina 4: pronto ad aumentare i salari, Marchionne, paghe equivalente a quelli degli altri paesi se avremo la stessa produttività. O ancora pronto a investire 20 miliardi su Fabbrica Italia, ma non accetto che tre persone ne blocchino 1.200. sulla politica ha parlato, la domanda: intende scendere in campo in politica? Non scherziamo, io faccio il metalmeccanico. Insomma, diciamo che questa intervista ha fatto davvero il botto, almeno sui commenti, praticamente su tutte le prime pagine dei giornali le aperture sono queste. Rimanendo in campo economico, come detto, il Sole 24 Ore da oggi, l'edizione del lunedì, è rinnovata con uno sguardo e un'attenzione in particolare al mondo delle piccole e medie imprese. C'è il direttore Gianni Riotta che firma l'editoriale Un lunedì da Leoni per tutti voi, firmando proprio e spiegando come cambia il giornale nell'edizione del lunedì. Il nuovo Sole 24 Ore del lunedì sarà la vostra bussola, riferito proprio ai piccoli e medi imprenditori, nella turbolenta stagione che andiamo a vivere pur viva di occasioni. Alle PMI, le orgogliose aziende capaci di tenere i lavoratori con sé malgrado tutto, daremo la strada verso il mercato globale, che è la strada per il successo. Ai quadri delle grandi aziende, agli imprenditori chiamati a tracciare le strategie dei gruppi multinazionali, indicheremo codici e opportunità del mercato. E ai professionisti diremo, con Al Varian di Google, innovare, innovare, innovare. Questo è uno stralcio dell'editoriale di Gianni Riotta. Come detto, l'apertura è sul rischio valute per le PMI, dai contratti in euro ai gruppi d'acquisto, le contromosse delle aziende, ne scrive Chiara Bussi all'interno a pagina 3, sotto l'articolo firmato PMI, la miglior difesa è l'attacco, l'export ovviamente è più difficile, così le aziende reagiscono al mini dollaro, cioè il problema delle valute e il problema delle esportazioni per quel che riguarda le piccole e medie imprese. Mentre vi segnalo Stefano Carrera, pagina 24, lancia un interessante sguardo sul Giappone. Web, logistica e pagamenti in Giappone è più facile. Una piattaforma unica per vendere il Made in Italy in Italia, si tratta del progetto Stream It Japan, è una strategia appunto per promuovere e commercializzare il Made in Italy basato su una piattaforma tecnologica di web TV, un modo insomma per accedere a mercati lontani che sembrano inaccessibili, e che è spiegato per quel che riguarda i progetti di e-commerce a pagina 24 del Sole 24 Ore. Diamo uno sguardo sempre per quel che riguarda l'economia, un interessante articolo che appare sul Messaggero a pagina 4. È il futuro della Rai, un'azienda che coi conti economici non va davvero bene. La RAI pronta ad appaltare all'esterno abbonamenti, trucco e parrucchieri. Eccolo qui, a pagina 4 Alberto Guarnieri spiega che oggi Mauro Masi, atteso da un importante e temutissimo incontro, almeno dai sindacati, all'interno dell'azienda, per comunicare la manovra di rientro da un deficit che tendenzialmente dovrebbe superare i 120 milioni nel 2011, potrebbe addirittura arrivare oltre il mezzo miliardo di euro tra due anni. E allora, che cosa avrebbe in mente Masi? La RAI ha intenzione di appaltare ad aziende esterne servizi svolti storicamente da dipendenti, come gli abbonamenti, cioè la riscossione del canone, che tra l'altro dovrebbe aumentare di 20 euro, questo l'ho letto da qualche parte, per la gioia di tutti gli italiani, la gestione dei mezzi pesanti e alcuni servizi finanziari, oltre al trucco e parrucco. E giustamente Guarnieri dice: non faccia sorridere l'inserimento tra gli asset in esame di quest'ultima categoria, insomma, che per una TV è un asset importante. Ricordate che tra l'altro, quando ci fu questo tentativo di esternalizzazione a Mediaset, ci fu anche uno sciopero degli addetti trucco e parrucco, no? Ora bisognerebbe affrontare la questione della politica. Già un po' sbuffo, perché la politica è tornata sui temi classici, quello del lodo Alfano che sta facendo discutere, tanto che Bersani dice via lodo Alfano e dialoghiamo sul fisco, quello del gran ritorno del governo tecnico, perché nel weekend Fini ha detto un governo tecnico non sarebbe anticostituzionale, solo chi non conosce la Costituzione può dire che è anticostituzionale. Insomma, questo ha riacceso un po', se vediamo il termometro dei rapporti tra PDL e Finiani, almeno legge dai giornali, il termometro segna, è tornato a segnare cattiva o temperatura alta, insomma febbre, diciamo così, febbre. Tanto che il lunedì è il giorno delle interviste e allora Bondi, il ministro al Corriere, illegittimo, un esecutivo non guidato da Berlusconi, in un'intervista a Marco Galluzzo che trovate in taglio basso, pagina 8 e 9, dice, secondo me, come dice Piero Stellino, il governo tecnico sarebbe politicamente illegittimo ancorché costituzionalmente legale. E come ha detto Sacconi, sarebbe l'esercizio di un ceto politico che gioca le sue ultime carte. Se davvero riuscissero a formare un governo tecnico, perderebbero ogni residua credibilità. Andiamo avanti. Frattini, intervistato da Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 9. Troppi attacchi al premier, i Fignani la smettano di fare gli sfascia carrozze. E viviamo in un clima di attacco giudiziario permanente al premier, pezzi di una maggioranza che ha concesso il voto di fiducia pochi giorni dopo sembrano fare di tutto per metterlo in difficoltà. Nei Fignani l'importante è che tengano a bada gli sfascia carrozze. Berlusconi sta in silenzio totale, fa sapere il giornale a pagina 4 con Francesco Kramer che ormai è prevalsa la linea Gianni Letta, cioè Berlusconi, se potesse, urlerebbe tutto il suo disappunto nei confronti di Fini, ma al momento sta zitto. È persuaso che sia meglio tacere, ha preso il sopravvento la cosiddetta linea Letta. Toni bassi, nessuno scontro con il Colle e con Napolitano, nessuna dichiarazione per irritare la maggioranza, nessuna reazione di fronte ai continui calci negli stinchi da parte dei Fignani, così dice Francesco Kramer. Ma insomma, si registra sul Corriere della Sera la nascita di Via a Forza del Sud. Forza del Sud è l'antilega che nascerà sabato, la porta avanti il sottosegretario Gianfranco Micciche. Ci sarà presente anche la Carfagna al ruolo della Prestigiacomo. Tra 5 giorni nasce dunque Forza del Sud, mancava un'altra forza politica in Italia. E poi c'è la polemica tutta all'interno del PD di Renzi. Renzi, sapete che è quello che dice da giorni: voglio rottamare il vecchio PD, al che Anna Finocchiaro si è veramente stufata, gli ha detto è un maleducato, non si dice rottamare delle persone. E come dire, Renzi ha risposto così: allora, se vuole glielo chiedo per piacere, così non sono un maleducato. Se ci fa la cortesia di lasciare il posto a una giovane precaria, a una ricercatrice, a una mamma di famiglia, forse è meglio che restare per 25 anni alla Camera o al Senato. Insomma, concludendo, Renzi insiste: chi ha fatto 3 mandati in Parlamento non si aggrappi alla sedia. Il traffico. I moderni tribuni dell'opinione azzecca garbugli che fanno ridere. Così Giuliano Ferrara oggi sul Foglio, nel tradizionale commento del lunedì, firma un editoriale al vetriolo sull'attuale situazione politica. Mi viene da ridere quando penso all'ingombrante paccottiglia costituzionale, alla petulante strumentazione culturale messa in campo da 16 anni per impedire a Berlusconi di governare su mandato sovrano degli elettori. Lasciamo stare gli avversari politici. Rido, scrive Ferrara, quando politologhi, giuristi, osservatori che si proclamano moderni tribuni dell'opinione, giudici imparziali del corretto e dello scorretto, gente informata di mondo che conosce o dovrebbe conoscere le regole della politica, fanno a gara nel gridare lo scandalo delle leggi ad personam. Ma è così facile percepire la verità delle cose. È imbarazzante l'idea che i sapienti della Repubblica Costituzionale non ci arrivino. Berlusconi ha vinto 3 volte le elezioni, le ha vinte regolarmente. Si può delegittimare la sua entrata in politica per via del conflitto di interessi, ma è una delegittimazione generica, un orientamento soggettivo senza conseguenze. Gli atti di Berlusconi politico sono stati legali, sanzionati dalle corti d'appello che hanno proclamato eletta la sua maggioranza, dai presidenti della Repubblica che hanno promulgato le leggi elettorali. Per 3 volte ogni vittoria il nucleo d'acciaio dell'opposizione è stato giudiziario. La pretesa è stata quella sempre di buttarlo giù attraverso processi per questa o quella presunta illegalità sua o del gruppo o di suoi collaboratori. E il disegno si è sempre arenato di fronte alla questione di consenso. Sarà Lodo Alfano, il legittimo impedimento, il processo breve, il processo lungo, la legittima sospicione, la riforma derogatoria internazionale o chissà quale altra diavoleria, ma è evidente che la pretesa di buttare giù uno che è stato eletto per governare e di farlo con mezzi giudiziari non può non incontrare la complicazione del conflitto istituzionale del Parlamento contro la magistratura. Ci sono capi che sono inviolabili giudiziariamente, come il presidente francese, capi che possono essere deposti con un voto del Parlamento, come il presidente americano, e capi che dovrebbero essere a disposizione del primo John Henry Woodcock o del primo De Magistris che passa, in nome della legge uguale per tutti e in disprezzo esplicito della sovranità popolare. Quest'ultimo è il caso, che fa ridere, dell'Italia vista dagli azzeccagarbugli. Questo Giuliano Ferrara oggi, nell'editoriale del Foglio. Io lascio la politica, sulla cronaca trovate molto ancora della vicenda, indovinate un po', di Avetrana. Ora ho scoperto con raccapriccio che girano degli audio che vengono anche messi in onda in alcune trasmissioni, l'audio dell'interrogatorio, della confessione dello zio Michele Misseri. Tanto che, diciamo, questi audio vengono descritti, in realtà oggi Goffredo Buccini sicuramente vince, secondo me, la palma dell'articolo da leggere, lo trovate a pagina 18 sul Corriere della Sera, la voce di Sabrina è quella litigata, vidi la gocciolina di lacrimuccia, questo è il titolo dell'articolo, e sono gli audio appunto di Sabrina che racconta per esempio di come litigò la sera prima con Sara. Lei la fece piangere perché era gelosa del suo rapporto con Ivano, chiede il PM. Ma no, io la vidi, la gocciolina di lacrimuccia di Sara quella sera. Proprio così dice, la gocciolina di lacrimuccia. E poi c'è Michele, lo zio, il racconto in audio, ovviamente qui lo leggete sul Corriere della Sera, con tutti gli errori grammaticali. L'incredibile movente. Avvicinati, Michele. Al microfono, sì. E sentite che dice, perché l'ho fatto per il trattore. Come per il trattore? Non so che mi abbia successo. E diccelo, Michè. Stavo nervoso per il trattore che non partiva, nervosissimo. Ecco, se parte il trattore, Sara era ancora viva, mo. Veniva e io me ne ero andato già col trattore, ma il trattore quel giorno non partiva. E poi racconta tutti i suoi errori grammaticali, non capisce le domande, insomma, dice, vuole fare dichiarazioni. Come? Vuoi parlare, Michè? Sì, voglio parlare. Tanto che Buccini racconta, dirlo mette i brividi, ma questo mostro a sentirlo sembra Peppino De Filippo costretto nella parte di Jack lo Squartatore. Racconta l'orrore come se si parlasse della raccolta delle olive o recitasse una fila Strock. Tanto che questa presenza di audio che vengono mandati in onda da qualcuno spingono il direttore della Stampa Mario Calabresi a fare un editoriale che io appoggio in pieno, molto molto secco, in prima pagina, dal titolo Il rispetto del lenzuolo bianco. Esiste un gesto antico di pietà, scrive Calabresi, che mi torna in mente continuamente in questi giorni, quello di coprire il corpo di chi è morto in un luogo pubblico. Oggi invece si è fatta strada in Italia una strana concezione dell'informazione che si potrebbe sintetizzare in un gesto, quello di sollevare il lenzuolo e spingere tutti a fissare quello che c'è sotto. Molti restano incollati all'immagine terribile, altri sfuggono, alcuni cominciano a provare disgusto. Ebbene, non era mai capitato di avere la possibilità di ascoltare in tempo reale un interrogatorio divulgato fuori da ogni regola, prima ancora dei rinvii a giudizio di qualunque decisione della magistratura. Ci siamo chiesti cosa farne, se mettere sul sito web, sicuri di fare un record di contatti, l'audio di questi interrogatori. Abbiamo deciso di no e abbiamo avuto conferma che si vuole solleticare la morbosità poche ore dopo, quando una trasmissione televisiva per famiglie, pagata col canone, in orario pomeridiano, ha cominciato a mandare in onda frammenti di audio accompagnandoli con un dibattito osceno e surreale. Ma allora dov'è il problema? Chiede Calabresi. Credo che esista una sostanziale differenza tra riportare un fatto, raccontarlo, o invece gettarlo in faccia a chi ascolta senza alcuna mediazione. È in quella differenza che è nato il giornalismo, che ha trovato un senso e una ragione di esistere. Qui da noi, conclude Calabresi, è saltato tutto e così si trovano disponibili le voci dei presunti assassini mentre vengono interrogati, come le intercettazioni telefoniche, un momento dopo essere state registrate. Il rispetto del lenzuolo bianco, Mario Calabresi, con lui concludiamo la rassegna stampa, il GR.